L'isola è un mondo lontano. Che disti 3 miglia o 3 miglia dalla costa più vicina, l'isola è sempre lontana. Metto piede a Procida che sono le 2 del pomeriggio. Ora il sole sembra davvero caldo. Come se il mare riflettesse tutta la luce verso questo pezzo di terra. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Oh mamma, voglio l'uova, la cocco, oh mamma, e ballare in slip, oh mamma, e suonare in frac e cantare in rock and roll. Sono giornate difficili queste, il clima non è clemente, comincia a fare freddo, soprattutto a novembre gli amori si sfaldano, a novembre si sfaldano di più che al solito, la gente perde il lavoro, insomma è un periodo orribile. Quindi se cercate a tutti i costi un motivo per essere un pochettino più allegri e non lo trovate, vale anche cercare un motivo che non ha nessun motivo, ed è tipo ascoltare un pezzo di un folle che 50 anni fa cantava una canzone che si chiamava Oh mamma, voglio l'uovo alla Oh mamma, voglio l'uovo alla cocco, oh mamma, e ballare. Allora, questo tizio, andate a vederlo, l'ho caricato sul profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui. Si chiama Clem Sacco, probabilmente le persone che hanno una 50ina d'anni sanno di chi sto parlando. È uno pseudonimo, mi sono informato su di lui perché vedendolo ballare in quel video è a metà tra un folle e uno scriteriato. Si chiama Clem Sacco, è uno pseudonimo di Clemente Sacco. Lui è nato al Cairo nel 1933. E già ti sta simpatico, uno che è nato al Cairo negli anni 30. Nel 46 viene a vivere a Milano e studia canto lirico, quindi per un po' lui, probabilmente dalla voce sarà un tenore, probabilmente. Poi capisce che le cose non vanno molto bene. Quindi, dopo aver fatto delle sporadiche apparizioni in alcuni locali milanesi, nel 61 lui scrive una canzone che si chiama Agnese Rock. Ed è una sorta di precursore del rock all'italiano. Fino a che nel 1961, nello stesso anno, esce con questo brano qui. È un brano demenziale, chiaramente, che si chiama Oh mamma, voglio l'uovo alla cocca. Non so come mai mi faccia questo effetto. Credo che lui sia un folle veramente, al punto che dopo le cose non gli sono andate molto bene a Clem Sacco. Nel senso che nel 64 ha fondato un complesso che si chiamava Clem Sacco e i suoi califfi. Poi è entrato a far parte del gruppo di Celentano, come si chiamava il gruppo? Il clan di Celentano, però poi le cose sono andate male e negli anni 80 lui si è progressivamente allontanato dalla scena italiana e si è trasferito a Tenerife, nelle Canarie. Grazie mille a Clem Sacco. Non c'entrava nulla, però visto che è una giornata orribile, non per me, per me oggi è una gran giornata, però per molti in giro, basta guardarsi attorno, non è una gran giornata, secondo me magari non ve la svolta la giornata, però quantomeno quel minuto e 58 secondi, un pochettino vero rallegra. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, oggi abbiamo una persona in più con noi in regia ed è Viola la stagista, che è già passata alla storia come Viola la stagista, nel senso che farà la stagista fino a... ma sarai sempre con noi Viola, giusto? No, no, no, è solo che è l'ombra di Vittoria Mussini, e infatti Vittorio Mussini ha quella tipica fare un po' da vabbè, devo insegnare il mio lavoro, non so se ce la farò arrivare fino alla fine. 800 24 00 24 349 238 6666. Oggi continuo il racconto che ho cominciato ieri, è il racconto del mio fine settimana. Questo fine settimana sono andato a Napoli, lì ho scoperto che Vincenzo, che era la persona che io sto cercando da ormai una settimana, era alla Casa al Mare. La Casa al Mare di Vincenzo si trovava e si trova tuttora a Procida. Procida è un'isola in cui, se non sei, diciamo, del centro-sud Italia, è difficile che ci vai, perché non lo so perché, perché Capri è più famosa, perché Ischia è più famosa, perché tutto sommato non è così comodo arrivarci. E invece è una di quelle isole in cui quando ci arrivi hai la sensazione che in qualche modo un pochettino ci sei già stato. Primo perché magari hai letto un libro che era ambientato lì, ed è un libro famoso e che magari ti hanno fatto leggere a scuola, e quello era il mio caso. E secondo, perché le isole fanno un pochettino questo effetto. A quelli che non ci vivono, a quelli che ci passano ogni tanto, un pochettino un'isola ti adotta. Ed è uno di quei posti in cui proprio nelle giornate come queste, nelle giornate orribili di pioggia e di vento, se non hai Clem Sacco da ascoltare, hai un luogo dove rifugiarti con la mente, e per lo più è un'isola. Non mi riferisco però, come molti mi hanno scritto, all'isola della mente, all'isola che c'è dentro di me, No, parlo proprio di un'isola vera. Parlo di quel posto in cui tu sei andato prendendo un traghetto, prendendo un aereo, e quella, in qualche modo, è diventata la tua isola. 800240024 349-238-6666. Vorrei che mi spiegaste per quale motivo quell'isola in particolare e non un'altra vi ha adottato e la sentite vostra, e soprattutto qual è, ovviamente. Questo per chi non abita in un'isola. Se invece c'è qualcuno che in questo momento mi ascolta da un'isola piccola, purtroppo so che non è bello escludere, però escluderei la Sardegna e la Sicilia perché è un po' troppo facile, come dire qualcuno che ci ascolta dalla Lombardia o dal Lazio. No, qualcuno che mi ascolta da un'isola tipo l'isola d'Elba va già bene, anche se è grandicella, Ustica, Pantelleria, la Maddalena, Filicudi, Alicudi, valgono tutto, valgono le Tremiti, valgono le Egadi, le Pelagie, vale Malta. Si prende la D24 a Malta? Attenzione, non lo sappiamo. In streaming si prenderà per tutto, anche se prima uno mi ha scritto: uè, oggi si sente male in streaming la D24, vedi di fare qualcosa. A me, giuro, me l'ha scritto. Quindi valgono tutte le isole. Se vi trovate su un'isola in questo momento, mi piacerebbe molto sentire che cosa c'è intorno a voi. 800240024 oppure 349-238-6666. Alcuni esempi che sono arrivati su Facebook di isole che sono diventate di chi c'è stato. Valentina, la mia isola della Sicilia, abbiamo già detto, partiamo male perché non va bene. Elisa, Sifnos in Grecia. Elisabetta, Caio Largo, però 25 anni fa. Francesca, Sardegna, arcipelago della Maddalena, isola di Santa Maria, che credo sia un'isola vicino a Spargi, credo, è proprio nelle bocche di Bonifacio, mi pare. Luisa, Nissiros, Dodecaneso. Anita, Filicudi. Filicudi è l'unico posto al mondo al quale non potrei mai rinunciare. Quando ci vado vorrei poterla abbracciare tutta. La amo come si ama una mamma, un amante o un'amica. Viva le isole! Laura, ho cercato di collezionare almeno una visita a tutte le isole del Tirreno, scendendo fino a Pantelleria. Poi ho aggiunto qualcosa anche in altri mari più lontani, e dunque la scelta si fa difficile. Sono costretta a citarne due. Ustica, perché è l'isola, scritto in maiuscola, e El Hierro, arcipelago delle Canarie, dove vive, tra l'altro, Clem Sacco. Sabina Spargi, Claudio Malta, ok, 800240024, 349-238-6666. La vostra isola, Procida, non è la mia, ma secondo me potrebbe diventarlo. Per raggiungere Procida, gli aliscafi partono da un molo del porto di Napoli che si chiama Beverello. Domenica, verso l'ora di pranzo, sono arrivato al molo Beverello, ho pagato la mia corsa e mi sono messo ad aspettare. E come sempre mi succede, l'attesa ha iniziato a fare nascere tutti i dubbi possibili. Io mi stavo imbarcando verso un'isola per cercare un tizio a cui consegnare una lettera di mezzo secolo fa, come se non sapessi che in 50 anni le vite vengono create, vengono ribaltate, si trova un lavoro, si va in pensione, si può diventare ricchi, si può perdere tutto, si fanno dei figli, si diventa nonni, si può rimanere vedovi e risposarsi, si nasce e si muore. E in tutto questo io ero solo un imbecille che aveva trovato una scatola con dentro una lettera sotto le piastrelle del bagno. E pensando a me che scardinavo la tazza del cesso immerso nell'acqua fino alle caviglie, ecco, a quel punto io stavo veramente per tornarmene a casa, ma in quel momento è arrivato l'aliscafo. Procida è l'isola più vicina alla costa e per raggiungerla ci si impiegano 35 minuti circa. Domenica il mare era calmo, il sole era quasi caldo. Io ero seduto dalla parte sinistra dell'aliscafo e vedevo solo il mare e la costa napoletana che si allontanava. E mi sono accorto che stavamo arrivando a Procida perché l'aliscafo ha iniziato a rallentare. Ecco, allora lì ho allungato il collo verso il vetro e l'ho visto. Il carcere. Sulla punta occidentale dell'isola, in alto su una montagna, una muraglia fatiscente, una roba che si confonde con la roccia dell'isola, e intorno tutti i fiori. E mentre la barca entrava nel porto e i primi edifici color pastello sfilavano lungo la sua fiancata, io mi sono ricordato che Procida non l'avevo mai vista, però c'ero già stato. Era l'estate di molti anni fa, era il mio compito per le vacanze estive, era un libro di Elsa Morante, si chiamava L'isola di Arturo. Le isole del nostro arcipelago, laggiù, sul mare napoletano, sono tutte belle. Le loro terre sono per grande parte di origine vulcanica e vi nascono migliaia di fiori spontanei. In primavera le colline si coprono di ginestre. In primavera le colline si coprono di ginestre. Riconosci il loro odore selvatico e carezzevole appena ti avvicini ai nostri porti, viaggiando sul mare, nel mese di giugno. Su per le colline, verso la campagna, la mia isola ha straducce solitarie, chiuse fra muri antichi. Oltre i quali si stendono frutteti e vigneti, che sembrano giardini imperiali. A varie spiagge, dalla sabbia chiara e delicata, e altre rive più piccole. Coperte di ciottoli e conchiglie, e nascoste fra grandi scogliere. Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco. Intorno al porto le vie sono tutte vicoli senza sole, fra le case rustiche e antiche di secoli che appaiono severe e tristi, sebbene tinte di bei colori di conchiglia, rosa o cinereo. Sui davanzali delle finestruole si vede qualche volta una pianta di garofano, coltivata in un barattolo di latta. Oppure una gabbietta che si direbbe adatta per un grillo e rinchiude una tortora catturata. Nel nostro porto non attraccano quasi mai quelle imbarcazioni eleganti da sport o da crociera. Che popolano sempre in gran numero gli altri porti dell'arcipelago. Ci vedrai delle chiatte o dei barconi mercantili, oltre alle barche da pesca degli isolani. Mai, neppure nella buona stagione. Le nostre spiagge solitarie conoscono il chiasso dei bagnanti. E se per caso uno straniero scende a Procida, si meraviglia di non trovarvi quella vita promiscua e allegra, feste, conversazioni per le strade e canti e suoni di chitarre e mandolini, per cui la regione di Napoli è conosciuta su tutta la terra. I procidani sono scontrosi, taciturni. Le porte sono tutte chiuse, pochi si affacciano alle finestre. Ogni famiglia vive tra le sue quattro mura, senza mescolarsi alle altre famiglie. L'amicizia da noi non piace. E l'arrivo di un forestiero non desta curiosità, ma piuttosto diffidenza. Se esso fa delle domande, gli rispondono di malavoglia, perché la gente nella mia isola non ama ad essere spiata nella propria segretezza. L'isola è un posto lontano, che disti 3 miglia o 3.000 miglia dalla costa più vicina, l'isola è sempre lontana. Metto piede a Procida che sono le 2 del pomeriggio, il sole sembra davvero caldo, come se il mare riflettesse tutta la luce verso questo pezzo di terra. È novembre e io sembro essere l'unico turista. Qualche pescatore che sistema le reti, perché i pescatori sistemano sempre delle reti. Un paio di cani magri che non sembrano randagi. E forse in fondo non lo sono, perché l'isola è così piccola che potrebbe essere un grande giardino. Prendo un minibus di quelli che portano al massimo 20 persone. Così piccoli che non mi spiego il perché. Non me lo spiego fino a che non misuro i 3 centimetri che rimangono tra una fiancata e l'altra quando si infila nelle vie del paese. E l'autista è addirittura costretto a tirare dentro gli specchietti retrovisori per passare tra i muri delle case. Sto andando dall'altra parte dell'isola, senza doverci veramente andare. Perché alla fine la casa di Vincenzo, lo so, sta in paese, e il paese è in alto, sopra il porto. Però io voglio avere la sensazione di conoscere tutto il perimetro dell'isola, prima di andare dritto al mio obiettivo. Dopo 10 minuti scendo vicino ad una spiaggia, che si raggiunge attraverso una lunga scalinata nella roccia. La sabbia scura e la baia a semicerchio, anche ad un imbecille totalmente a secco di geologia, rivelano che tutto qui è di formazione vulcanica. Sulla spiaggia c'è una ragazza che gioca con un cane. Io mi guardo in giro per vedere se ci sono delle telecamere che riprendono, perché le ragazze che giocano con i cani sulla spiaggia ci sono solo negli spot pubblicitari. Solo che lì sono in costume da bagno e il cane gli morde il tanga, rivelando il segno del costume. Qui invece lei ha addosso un paio di jeans e un giubbotto. È bionda, con i capelli a caschetto e con la faccia da bambina. Il cane appena mi vede mi corre incontro. Mi corre incontro in quel modo che hanno i cani di correre incontro alle persone sconosciute. Roba che se sbagli ad avere paura e scappi potrebbero inseguirti all'infinito. Invece se li aspetti e magari ti inginocchi, loro sembrano felici come nessun animale al mondo sa essere felice. Quindi mi abbasso e lascio che mi festeggi leccandomi le mani e facendosi accarezzare sotto il collo. È un setter, è bianco e beige e si chiama Roccia. Lo dice la targhetta a forma di osso attaccata al collare, ma lo urla anche la sua padrona, che evidentemente ha paura che io abbia paura oppure che mi dia fastidio. Lo chiama dicendogli di stare buono e di tornare indietro, ma io non lo lascio andare, perché voglio che lei si avvicini. E infatti lei lo sta facendo. Quando è a circa 10 metri da me, lui si gira e le corre incontro di nuovo. E prima che si riallontani, io le chiedo se è un maschio o una femmina. Lei mi risponde con un sorriso irregolare, pieno, ha gli occhi verdi e ha il viso furbo di chi sembra stia per dire qualcosa di spiazzante. Ha un accento del nord, però non le chiedo di dov'è, non vorrei esagerare. E poi Roccia sta già correndo dall'altra parte opposta, sulla spiaggia, senza nemmeno sapere il perché. Lei mi saluta con lo stesso sorriso disarmante e io penso che è arrivato il momento di cercare Vincenzo. Salgo la scalinata e torno in paese. Amare, come sai tu non sa nessuna. Non devo perdonarti niente, mi basta quello che mi dai. Teresa, Teresa. (800) 24 00 24 349 238 6666. Intanto, giusto per la cronaca, quello di prima era Sergio Endrigo e il pezzo di prima invece non me lo ricordo, però trovate tutto sul sito di Radio 24 alla pagina di Io Sono Qui. Lì, oltre alla foto del giorno che vi racconto dopo, ci sono anche i brani che Tiziano sceglie tutti i giorni. L'isola che è diventata vostra. Abito in montagna, l'isola che mi ha adottato è quella dei pazzi di Lost. Arco di Riva del Garda. Beh, ma Riva del Garda però non c'è un'isola del Lago di Garda? No, però valgono anche le isole dei laghi, ovviamente, tipo l'isola dei pescatori, l'isola bella del Lago Maggiore. C'è un'isola sul Lago Trasimeno, c'è un'isola anche sul Lago d'Iseo, però non mi ricordo come si chiama, che è un po' rotondetta. No, Portondetta è un'isola, quindi cosa vuol dire un Portondetta? Tenerife, proprio l'isola magica dove vive Sacco, perché nei 4 anni in cui ho vissuto là mi ha dato, o meglio ridato, la mia vita ed il chilometro zero della mia strada e delle esperienze più importanti che mi hanno fatto essere ciò che sono. Claudio di Rimini. 800 24 00 24. Possibile che non c'è uno che stia ascoltando da Capraia, ad esempio, oppure dall'isola del Giglio, dalla Gorgona? No, la Gorgona è difficile perché c'è il carcere, però magari qualcuno da Pianosa, perché poi molti diventano dei carceri, però delle carceri, però dall'isola, io non ci credo che non c'è nessuno in ascolto dall'isola d'Elba in questo momento. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Adesso andiamo su un'altra isola, andiamo sulla borsa e dopo la borsa io sono qui. E siamo ad Alicudi già da diversi giorni. È veramente un'isola diversa dalle altre, dove finalmente riusciamo a concentrarci. Qui c'è molta calma, una calma terribile. Benvenuti, scusami. Benvenuti a Panarea. Da dove venite? Stromboli. Che noia. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo in riva ad un lago, direi in autunno, quindi probabilmente è stata scattata di recente. Nella foto quindi c'è l'acqua sullo sfondo e ci sono delle piante, che però non saprei dire che tipo di piante sono. E sotto queste piante c'è una ragazza che ha una faccia simpatica, che sta tipo accarezzando le foglie dell'albero e sta guardando dritta in camera. Potrebbe essere un lago del nord Italia o un lago della Svizzera, solo che sotto di lei c'è un cartello con delle piccole indicazioni che è scritto chiaramente in giapponese. Carlotta Zadra, 25 anni, eccomi in Giappone, ci studio e ci vivo, ma in quei 30 minuti in cui ti ascolto ogni giorno sono di nuovo in Italia, a casa. Io sono qui. Pronto Carlotta? Sì, pronto. Ciao, buongiorno. Ciao. Oddio, buongiorno, che ore sono in Giappone in questo momento? È mezzanotte e mezza passata. Senti Carlotta, innanzitutto grazie per la foto che tutti possono andare a vedere come al solito sul sito di Radio 24 alla pagina Io Sono Qui. E poi la seconda domanda è, anzi la prima domanda è, che cosa ci fai in Giappone? Cosa ci studi? Io studio giapponese, ho studiato giapponese a Venezia. Uh-huh. E adesso sono in scambio, perché praticamente ci sono le possibilità di scambio tra le università e quindi sono riuscita a venire qui e sono in un'università giapponese. E da quanto sei lì? Io sarò 6 mesi, però c'è anche chi sta un anno. E ci sei arrivata quando? Io 2 mesi fa, esatto. E quindi ce n'hai ancora 4 davanti? Sì, sì, sì, ma ero già stata qui altri 6 mesi, 2 anni fa. E senti, Carlotta, come si sta in Giappone? Beh, si sta bene, è tanto diverso. Cioè, tanto ecco, diverso esattamente lì volevo arrivare. Dimmi una cosa che è diversa, la prima cosa che ti salta all'occhio o che ti salta alla mente, che è veramente diversa dall'Italia, a parte la lingua. La prima cosa che mi salta all'occhio, adesso sono fuori dal portone di casa, sono i cavi della luce, dell'elettricità, di qualsiasi cosa. Noi abbiamo tutto sottoterra, qui hanno cavi tutti per aria, cioè c'è una mostruosità di fili orribili che rovinano qualsiasi paesaggio. Senti, tu sei fuori dal portone di casa, e com'è casa tua invece? Cos'è, un monolocale, una stanza? Scusa, non ho sentito perché c'è la linea. Casa tua? Tu stai in una casa che ti sei trovata, che ti hanno trovata, e com'è? È un dormitorio per studenti, non è un granché, in effetti. Ah, ma quindi stai in una camerata? No, la stanza è singola, ma è un loculo, perché in Giappone è tutto piccolissimo. Loro hanno delle case che sono dei buchi, e è tutto a misura Giappone. Ok, senti, un'ultima cosa, come stai, cosa la farai la tesi? Devi fare una tesi, immagino, no? Come, scusa? Devi fare una tesi alla fine di tutto questo, un dottorato? Ah, sì, io sto facendo la tesi sul cristianesimo in Giappone. Ok, chiaramente, guarda, la domanda che tu ti aspetterai invece, Carlotta, è che tutti i bravi conduttori farebbero è: facci un bel saluto in giapponese, dai! Ah, oddio, ma cosa devo dire? Solo no, tipo ciao. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, non era difficile questo. Va bene. Carlotta, facile. Senti, magari ci sentiamo prima che ritorno in Italia, così ci dici com'è andata. Ah, sì, volentieri. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Ciao Carlotta, ciao. Buona giornata, buonanotte direi, visto che è mezzanotte e mezza. Visto che il Giappone è un'isola, valgono anche le isole straniere. Uno ci ha scritto, ma l'Australia vale? Beh, l'Australia varrebbe in teoria, perché è un'isola, giusto? Però in realtà, guardando dall'alto, un po' tutto è un'isola, giusto Paolino? Anche l'Africa. Intorno a me c'è traffico, sono sull'isola pedonale. Emanuele, sei un imbecille, però sei molto divertente. Arrivare al timone di una barca a vela nella rada di Capraia, sotto la fortezza Medicea. Decisamente Milos, Samos, Stampalia o Stampalia, Cicladi, e poi Procida, l'isola di Arturo, l'isola del Giglio, l'isola di Ventotene. Mi sento adottato dall'isola di São Miguel nelle Azzorre. Ios, Grecia, la mia isola è Pitcairn, Oceano Pacifico. Capraia ancora, Elba. Lo spot del cane e del tanga è stato girato a Rosignano Solvay. L'idea trasmessa dall'isola è un tarocco. Rosignano Solvay è una di quelle spiagge che sembrano delle spiagge caraibiche. Ci girano un sacco di spot, ipoteticamente ai Caraibi, perché lì c'è la Solvay che scarica, non proprio, adesso io non so esattamente, probabilmente qualcuno di Rosignano lo sa dire meglio di me, non ci scaricano proprio il bicarbonato, ma i residui della lavorazione del bicarbonato, e quindi la spiaggia è proprio Caraibi. Ora, io ci ho passato un'estate lì, spero che non mi nascano dei figli con tre teste. Samos, Lanzarote tutta la vita, insomma l'elenco è lunghissimo. Andiamo però a sentire qualcuno che c'è stato su un'isola e l'ha fatta diventare sua, e perché. Quindi andiamo da Alfredo a Napoli. Pronto Alfredo? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Come stai? Tutto bene. Sei a Napoli? No, adesso mi trovo a Taranto, purtroppo faccio il commerciale esterno e quindi ogni giorno giro per una cittadina italiana. E cosa vendi? Vendo legno, legnami. Vendi legname, ok. Dimmi invece qual è la tua isola e perché. La mia isola è l'isola di San Pietro Carloforte. È una piccolissima isola. Sì. Poche miglia marine dalla Sardegna. Uh-huh. È un'isola stupenda, praticamente. Quando ci sei stato, Alfredo? L'ultima volta sono stato a luglio del 2010, luglio quest'anno. E che cos'ha di particolare Carloforte, cioè San Pietro? Non c'è. Poco e nulla, non c'è proprio questo, è bello. Non c'è poco e nulla, ok. Alfredo, no, però, dimmi, però? No, però comunque è un'isola tabarchina, praticamente gli abitanti di quest'isola erano ex genovesi che furono deportati, o meglio, degli ex genovesi che furono trasferiti, un po' la storia, non me la ricordo tanto sì, bene. Sì, comunque però, il succo è che parlano ligure lì, giusto? Giustissimo. Parlano ligure. Grazie mille Alfredo, buona giornata. Ciao, alla prossima. Arrivato un sms che dice: ciao, la mia isola è Linosa, l'isola più a sud di tutte in Italia. È mia perché non c'è assolutamente nulla e io sopporto poco il genere umano. E poi vedi le piccole murene a due passi dalla spiaggia. Carmen è al telefono. Pronto Carmen? Pronto? Ciao, buongiorno Carmen. Ciao. Ma noi ci siamo. Ho detto l'isola di Arturo anch'io. Carmen, ma noi ci siamo già sentiti o mi sbaglio? Sì, ci sentiamo spesso. Pensavo non ti ricordassi. No, non mi ricordavo il nome, ma la tua voce, però invece me la ricordo in maniera abbastanza distinta. Questa volta non ho messo Carmen Cuneo, ma sono io. Non hai messo Carmen Cuneo, ok. Temevo per un attimo mi è stato Carmen Consoli. Senti, Linosa fa cos'è? Isole Pelagie, giusto? Linosa è sud, sotto Lampedusa. Sotto Lampedusa, sì. Non so se faccia parte delle isole pelagiche. E come ci arrivi a Linosa, da Lampedusa? Ah, eterno. A parte che io ho un padre siciliano, quindi ho una base a Messina. Vabbè, quindi è facile. Però dico, qual è il modo per arrivarci a Linosa? Con un traghetto da Lampedusa? Devi attraversare la Sicilia, poi ci arrivi con un traghetto in cui viaggi di notte e arrivi al mattino presto. E tu dove stai quando vai a Linosa? Sto affitto una camera, quando sono da sola affitto una camera dei pescatori e basta, perché non c'è un albergo, non c'è niente. Quante volte ci sei stata? 5. 5 volte. Adesso purtroppo è 4 anni che per motivi di salute ho rinunciato al lavoro e non riesco più a andare, però mi piacerebbe tanto ritornare perché quando sono da sola sto bene. Carmen, ti auguro di tornarci il prima possibile. Grazie mille. Va bene, ciao, grazie, alla prossima. Ciao. Ce ne abbiamo uno che sta in un'isola, finalmente. Come, dalla provincia di Como? Giuseppe? Sì, pronto? Tu sei della non ho capito, sei della provincia di Como? Sì, esatto. Ma dove in Verigo, esattamente. Ma dove sei adesso? Adesso sono a Pomonte, sull'isola d'Elba. Ah, ok, perfetto, sei su un'isola. Che cosa ci stai facendo lì? Niente, sono venuto a vedere la casa di mia zia, sono venuto a vedere. Siccome 3 anni fa è venuta a mancare mia zia, mi ha lasciato questa casa con il terreno proprio lì a Pomonte . E sono venuto a vedere in che condizioni è, se c'è da farci qualcosa, c'è da sistemarla. E com'è? Non è male ereditare una casa all'isola d'Elba, no? Ma dipende dal punto di vista. Poi Pomonte è la zona, diciamo, un po' più selvatica dell'isola d'Elba. È presente dove si trova il Golfo di Fetovaia, Punta Nera, Pomonte. Parte occidentale dell'isola. Esatto, cioè praticamente di fronte, guardando verso il mare, in questo momento sto vedendo la Corsica, sto vedendo. Che tempo c'è adesso all'isola d'Elba? Non tanto bello, è coperto, non piove, però è coperto, ecco. Tutto. Senti, ma dimmi com'è questa casa però, quanto terreno c'è intorno, dimmi cosa vedi intorno a te. Intorno a me non vedo niente, c'è solo verde perché si trova tra Pomonte e il Golfo di Fetovaia, si trova questa casa, direttamente sul mare, ci sono 90.000 metri quadri tutti in giro la casa, solo che non ci si può fare niente per il semplice motivo che esiste sopra una servitù militare del 1715. Sul terreno? Sì, esatto. E cos'è una servitù militare, velocemente, scusami? Niente, praticamente c'era un'antica garretta con un posto d'osservazione che nel 1715 praticamente controllavano chi arrivava dal mare, se c'era degli invasori, cose del genere, ed è rimasta da allora, non è mai stata tolta e c'è ancora tuttora, e sul terreno Perfetto. Non ci si può fare niente. Ok, Giuseppe, grazie lo stesso e in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao. Oh mamma, allora chiudiamo con Clem Sacco, ma anche però con la storia di Carlo Forte. Nel 1738 fu colonizzata dagli abitanti di Tabarca, un'isola tunisina, colonia ligure di proprietà dei Lomellini, allora signori di Pegli, che allo scopo di sfruttare i ricchi banchi di corallo l'avevano popolata con i pescatori quasi esclusivamente pegliesi. Ecco perché parlano ligure. Grazie a Vittoria Mussini, a Tiziano Bonini, a Paulino Corleoni, ma anche a Viola, la stagista che oggi è stata con noi. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?